da und che du dicke bambu bippa. Mariana, chi mi gamete domano se cai no sbeto ca. Sono sasaya, kiwa mirai no.